Questo scricchiolio abbiamo dato la prova che è un vinile, intanto. Intanto troviamo qualcosa di positivo anche ma negli inciampi. È stato fatto apposta, voluto. Sì, certo. È un disco della Candid, è un disco meraviglioso. Che famosa etichetta autoprodotta, Sì. Perché per da fare grandi artisti, mi pare ci fosse anche Mingus all'interno di questa produzione. Sì. E altri. Max Roach. È curioso il titolo, The Straight Horn, cioè il corno dritto, perché il sax soprano praticamente non ha il famoso ricciolo che contraddistingue gli altri saxofoni, ecco. Ma stiamo parlando di Steve Lacy. Sì, non l'abbiamo detto prima. Immenso, che ha tantissimi meriti, uno dei quali è avere lui e Coltrane, in modi pur diversissimi tra di loro, aver affrancato il sax soprano da quell'uso clarineggiante che arrivava ancora da Sidney Bechet. Sì. E lui invece ha dato, tra l'altro, sax soprano strumento difficile, micidiale, vedi come sta swingando su un brano bop Donna Lee, tipicamente Charlie Parker, la sua narrazione, e ammorbidirlo in questo modo, addomesticarlo, forse è la parola giusta. E poi è irriverente rispetto alle formazioni classiche. Qui abbiamo un soprano e un baritono, alias Charles Davis, che fanno il bop, che è una cosa non so me, cui seguono John Orr al contrabbasso e poi il mitico Roy Haynes con le sue tirzinate sulla batteria. È una formazione veramente da All-Star Game. Gran disco. Steve Lacy è una carriera di sogno. Lui si mise a studiare tutti i pezzi di Thelonious Monk, tutti dal primo alla fine, molti interpretandoli magistralmente, perché con Monk diceva si entrava nell'anima. Certo. E aveva ragione. E aveva ragione. È puro stratismo musicale. E allora, perché abbiamo fatto questa digressione? Te lo dico subito, guarda. Intanto già dal titolo, per domani parliamo di Crossroad, il titolo di questo lavoro, questo progetto che vede protagonista Roberto Ottaviano, mitico, che abbiamo conosciuto e ascoltato con Eternal Love in un paio di concerti fa al Torino, un concerto di una bellezza. Anche con David Hawkins al pianoforte. E con Alexander Dobby. Alexander Dobby, al pianoforte. Danilo Gallo, che è un po' un musicista comune in questo progetto al contrabbasso, Ferdinando Farò alla batteria, che avranno motivo anche nella serata di sabato 6 aprile a Castel San Pietro all'interno di Crossroad al Cassero Teatro Comunale alle 21:15 di portare, senti un po' questo titolo che è particolarissimo ed è Lacy in the Sky with Diamond, che mi ricorda un po' i Beatles un attimo, un attimino ha qualcosa a che vedere. Lacy in the Sky with Diamond, sì. Che poi si diceva LSD, anche l'acronimo, se, ma anche se i Beatles sono smentito, ma per me era ben pensantismo posteriore. Può essere, anche perché erano al centro di queste critiche dal mondo conservatore. La musica di Steve Lacy, shakerata nei cieli con diamanti di improvvisazioni estemporanee. Io ho contattato Roberto Ottaviano, sentiamo allora l'anticipazione del concerto. E questo omaggio che facciamo in trio con Danilo Gallo al contrabbasso e con Ferdinando Farò alla batteria è un omaggio che abbiamo registrato intanto l'anno scorso e vedrà la luce quest'anno per l'etichetta portoghese, la Clean Feed. Il titolo è un calambur, uno di quei soliti calambur che a Danilo Gallo piacciono moltissimo, appunto Leffy, In the Sky with Diamonds, e gira intorno al repertorio italiano, ma naturalmente ci saremo noi con la nostra interpretazione personale. Certo, allora adesso entriamo a proposito di personale nel personale. Cosa ha dato Steve Lacy anche nella tua ispirazione musicale? Ma sai, è complesso, è articolato, è estremamente difficile sintetizzare. Io sono poi sempre costantemente legato a Lacy, non soltanto per lo strumento che a un certo punto ho deciso di suonare nella mia vita, di cui lui è stato un maestro assoluto e continua a essere, secondo me, uno tra gli specialisti insuperabili di questo strumento. È un po' tutto il mondo di Lacy che, come dire, mi ha fatto intravedere una geografia particolare del mondo del jazz. Lui è uno di quelli che ha costituito un anello essenziale tra la musica che si suonava a New York, appunto in quegli anni, e che era predominante, era quella legata sostanzialmente a certe formule di New Think e a Bop, che lui era più legato a mondi un po' distanti e contrastanti, del progressive Dixieland, come lo chiamavano quelli i leader dei gruppi ai quali partecipava, e poi con un balzo in avanti il mondo di Thelonious Monk, di Gil Evans e addirittura quello di Cecil Taylor. Quando poi a un certo punto ha cominciato a scrivere musica sua, quando è approdato in Italia, appunto nei primi anni 60, e poi ha risieduto qui in Italia per qualche anno e poi spostandosi in Francia, ha costruito un mondo straordinario in cui metteva insieme tutti quanti i pezzi della grande tradizione del jazz insieme a una visione molto futuristica di questa musica, passando anche attraverso il free. Credo che, come pochissimi altri personaggi, io faccio spesso un parallelismo tra il mondo di Steve Lacy e quello straordinario del nostro Giorgio Gaslini. Sono personaggi che mancano moltissimo nell'attualità e nella contemporaneità del nostro mondo musicale, perché sono stati in grado anche di portare il jazz a parlare il linguaggio di altre discipline, quello della letteratura, dell'arte figurativa, quindi a dargli un senso di totalità e di globalità che oggi un po' manca. Io poi, alla fine, minuto di tutto questo, vado alla ricerca di tutto questo e mi riconosco in pieno in questa modalità. Certo, e si sente, te lo posso assicurare. Io ti ringrazio tanto, ricordo poi tra l'altro che la ritmica di Danilo Gallo e Ferdinando Farò sarà progente anche nel progetto su Gato Barbieri con il Germano Zenga Quartet, e questo sarà sempre in una serata assolutamente da non perdere alle ore 21:15 sabato 6 aprile per Crossroad a Castel San Pietro Terme al Teatro Comunale del Cassero. Grazie Roberto, ti auguro una buona giornata e a presto. Grazie a voi, un abbraccio. questo è già più vicino a Evidence con Don Cherry, però allora precisiamo anche quello che ho selezionato in questo caso. È la formazione che ascolterete domani, chi avrà la possibilità di andare a Castel San Pietro per la rassegna Crossroad al Teatro Comunale del Cassero alle 21:15, con Roberto Ottaviano al sax soprano, Danino Gallo al contrabbasso, Ferdinando Farò alla batteria. E il nome è molto di Danilo Gallo, che ha dato all'incontro Lace in the Sky with Diamond, la musica di Steve Lace si shakerata nei cieli con diamanti di improvvisazioni contemporanee. Quello che abbiamo ascoltato in precedenza dal lavoro di Steve Lacy è, per così dire, di un altro periodo. Questo è già più vicino al lavoro che ho Evidence con Don Cherry, che sì, comunque lei si è buttato tantissime cose, già le citava prima Ottaviano, le musiche, i dischi con anche i poeti, musiche per danza, sì. È stato forse uno dei primi che ha avuto la capacità di fare concerti sublimi per sax solo, per esempio. Poi ha avuto il periodo frivolo di Hawk, e quindi è arrivato a Parigi col suo gruppo, il quintetto, dove c'era lui, Steve Potts, Irina Ebi, che era anche la sua compagna, oltre che ballerina e cantante, c'era Jean-François Jean Clark e Oliver Johnson alla batteria, altri dischi come Troubles memorabili, insomma. Tu sei potresti essere il biografo di Steve Lacy. Beh, Steve Lacy. L'hai visto devo dire dal che, vivo, immagino. No, devo dire anche che da ragazzo gestivamo la discoteca jazz in via Giuseppe Petroni, e lui veniva spesso. Ah. E quindi l'abbiamo conosciuto, peraltro un personaggio incantevole, perché io, se fossi la metà di Steve Lacy, non mi si parlerebbe neanche. Lui invece ha una semplicità, una tranquillità disponibile, e ci raccontava in questo periodo che lui ripeteva un tema al sax soprano 75 volte, perché era una teoria così di ascesi orientale, di appunto di trance, ok, di meditazione, yin, quelle cose lì, meditazione, quindi, ma certo. Era un personaggio incredibile. Allora, noi abbiamo voluto dare completezza al motivo di incontro con il germano Zenga Quartet, che è contraddistinto dal progetto di Ottaviano con Danilo Gallo e Ferdinando Farò per quanto riguarda la ritmica, il contrabbasso e batteria rispettivamente. In questo caso germano Zenga al sax tenore e Luca Fabio Gusella, che ascolteremo. Intanto però abbiamo parlato di Gatto Barbieri, allora facciamo lo stesso percorso. Ho portato il disco Chapter One Latin America, di cui ne sono usciti tre capitoli, mi pare. Perché ci fu, prima era un esponente del free jazz, quando anche l'Acto Studio di Roma, eccetera, con Don Cherry anche, bei dischi peraltro. Poi passò per la Liberation Music Orchestra. È vero. E poi imboccò la via latinoamericana. Il primo fu un bellissimo disco, ma che era ancora sul free, che era il Sad World, e quindi le Warren Chapter. E i vari chapter, i capitoli, il primo che tu penso abbia scelto, credo. Sì, è questo che sta andando. Infatti sentivo, è per me il più bello. Allora lo ascoltiamo. Ho indovinato anche questo. Questa timbrica incredibile, questo barrito di Gatto Barbieri. Fatto il percorso identico anche per questo disco, per quanto riguarda ricchissima serata, tra l'altro per il Crossroad a Castel San Pietro, musica in jazz in Emilia Romagna, in questo caso Germano Zenga Quartet, fra l'altro Luca Fabio Gusella sarà al vibrafono, alle percussioni, la ritmica completa con Danilo Gallo e Ferdinando Farao anche all'interno del progetto dedicato a Steve Lacy, in questo caso invece a condividere la serata con un altro protagonista, Gato Barbieri, An Evolving Idea. Pensa che io adesso non voglio, però Gato Barbieri l'ho conosciuto con delle sonorità latin funk degli anni fine inizio, 70. Sì, inizio ecco 80, così. Dopo il tango a Parigi immagino. Sì, dopo il tango a Parigi, esattamente. Invece il brano che mi ascoltavamo, se non mi ricordo male, era alla fisarmonica, era Osvaldo Puglisi, sì, che era un dei tanti tangheros argentini come il Gato, che il compagno Puglisi, perché erano tutti comunisti da Gardel fino a Puglisi, tranne uno, ahimè, Astor Piazzolla. Ah no, era un fascistone Astor, fascista, sì, insomma, fascista. Vabbè, non era impegnato. Adesso, no, vabbè, adesso okay. Sarebbe del PD, insomma. Che mentalità ottusa che ho. È vero. Accidenti. Nostalgico. Ascolta, noi concludiamo con... con un altro fisarmonicista, se non sbaglio. Dai, concludiamo con Galliano, che era il contraltare di Piazzolla, mi pare. Beh, no, Galliano è un grande interprete francese che si divide tra suoni del Guil Gauche fino al tangheros, ovviamente, essendo una fisarmonica. Grandissimo musicista che, tra l'altro, 2 anni fa ha fatto un finale esplosivo al Festival di Bergamo, quindi lo sentiamo invece. Una cosa ci proponi? Allora, vi propongo un disco in duo con Portal. Ah, per ho capito la qual è. Dreyfus Blow Up. È sì, un disco sì. Molto molto bello, secondo certo. Me. E sarà, per quanto riguarda Crossroad, restiamo sempre zona via Emilia, andiamo solo un po' più verso al fuori Bologna, perché sarà Imola, Teatro e Bestignani alle ore 21. E questo è Turbulence. Questa è, aspetta, questa è Mozambique. Mozambique, di sì. Michel Portal. L'ascoltiamo, che dopo sì. Diamo indicazioni più precise per il concerto. Intanto la data, mercoledì 10 aprile a Imola, al Teatro dei Bestignani, alle ore 21. Richard Galliano, New York Tango Trio. Thank you. Portalo ha un disco stranissimo che è molto bello, non vorrei confondermi, Minneapolis. Minneapolis, c'è anche il rap. Sì, c'è una due dischi sono Minneapolis, una parte che è più, diciamo così, non vorrei dire tradizionale perché sì, abbinarlo a Portale è abbastanza improprio, e poi ne uscì un secondo tipo, chiamiamolo remix, con elettronica, cioè, e con dell'hip hop. Invece il disco più antico di Portale, quando ancora anni 60, che era il Free Jazz francese con Pierre Favre batteria, che facevano En Voiture, con l'andare del treno, bellissimo. Collaborazioni che leggo da Gary Barton, Michel Portal, Wynton Marsalis, Joe Zawinul, Ron Carter, Chet Baker, insomma una carriera veramente estesa. Richard Gagliano, fisarmonica, accordina, Adrien Moinard alla chitarra, Diego Imberto al contrabbasso. Crossroad, l'edizione 2024, lo vedrà protagonista mercoledì 10 aprile a Imola al Teatro e Bestignani alle ore 21. Accompagnami in questo modo verso il GR di Radio Popolare. Augurandovi un buon weekend. Un buon ascolto, un buon jazz. Venerdì prossimo, mi raccomando, 11:30. Ciao Alfredo, ciao Will. Ciao a tutti. Può portarmi una birra? Scusi, me ne può portare?